Ando bene, siamo un po' più di un centinaio di persone per ora, però insomma il cuore della giornata è tra un pochino. Sono partiti gli interventi. E il perché di questa mobilitazione quest'oggi? Beh, insomma, c'è molto da raccontare, ci sarebbe molto da raccontare, perché insomma le vicende sullo smaltimento dei rifiuti si sono parecchio complicate negli ultimi mesi, già che non lo fossero abbastanza, con l'intervento della magistratura e insomma vicende ben note. L'iniziativa di oggi è un'iniziativa che prima di tutto viene stata convocata per riportare al centro dell'attenzione sui problemi, non più sul progetto di inceneritore, che insomma fortunatamente si è allontanato un pochino, ma più sulla questione della discarica presente sul nostro territorio, discarica ultratrentennale, che proprio subito dopo il via dell'inchiesta e tutta l'operazione della magistratura è uscito fuori una documentazione molto corposa da parte degli istituti dell'ARPA, e in particolare dell'ARPA, su una contaminazione delle falde acquifere sotto la discarica veramente impressionante. Questo accoppiato con gli studi pubblicati sempre recentemente dalla Regione Lazio attraverso lo studio ERAS fa un quadro veramente terribile di questo comprensorio, e a questo quadro non c'è una risposta istituzionale che insomma dovrebbe essere il quanto più pronta e celere possibile. Noi parliamo insomma di un territorio dove i pozzi scavati dai cittadini sono l'unico modo per approvvigionarsi dell'acqua, e questi pozzi purtroppo sono pesantemente contaminati dalla presenza della discarica, sia a valle sia a monte della discarica, e quindi c'è sicuramente un problema di fornitura idrica che va assolutamente nel più breve tempo possibile assicurata in maniera insomma che garantisca condizioni sanitarie minime e degne, perché quello che insomma si sta vivendo qui è veramente una tragedia. Quindi questo è uno dei punti più importanti, però c'è una fortissima resistenza da parte delle amministrazioni, soprattutto comunali, a intraprendere un percorso di ristabilimento della situazione sanitaria a livello decente, proprio per la collusione trentennale che c'è tra i comuni di Arde e Albano con le aziende qui di Maglio Cerroni, che oggi insomma non godono di ottima salute e però continuano a fare i loro porci comodi. Poi purtroppo, se ci mettiamo che tutta la regione sta veramente combinata male, la discarica di Albano è stata candidata ed è candidata più volte a ricevere rifiuti da altri punti della regione Lazio, come se qui i problemi causati già dalla spazzatura locale non ci fossero. E quindi insomma l'ultima notizia del mese è quella che per un periodo che non si sa bene quanto durerà, i rifiuti di Civitavecchia, del comprensorio del bacino di Civitavecchia, arriveranno fino a Roncigliano, e che insomma sono 100 km andare e 100 km a tornare, e insomma un'operazione veramente folle, però nel quadro della riorganizzazione e più che altro dell'assoluto disastro delle aziende di raccolta e trattamento dei rifiuti, ci sovraccarica anche di questo problema. Sì, quindi la giornata parte da premesse buone, da insomma uno spirito molto combattivo, e sicuramente insomma si è rafforzato nelle ultime settimane, però abbiamo di fronte dei problemi giganteschi che dovremo risolvere, cercare di far emergere queste contraddizioni e inchiodare insomma i responsabili alle proprie responsabilità, e pretendere gli interventi almeno minimi per garantire la vita delle persone qua in questo comprensorio. E quindi questo è un po' il senso di questa giornata, che però si è voluto agganciare con insomma tutte le vicende del Lazio. Domani mattina un corteo a Malagrotta contro l'avvio, il ripristino, l'ampliamento dell'inceneritore di Malagrotta, proprio nell'ottica di una solidarietà tra i comitati di tutto il territorio, che insomma abbiamo visto in più occasioni sta dando i suoi frutti, e insomma l'unione di tutti questi comitati produce insomma una massa critica molto più importante rispetto alle decisioni che ci intendono imporre. E sicuramente una giornata anche in solidarietà col movimento Notav, pesantemente represso dagli organi di magistratura, e quindi noi scendiamo qui in strada di fronte ai cancelli della discarica anche in solidarietà col movimento Notav, perché insomma la lotta contro l'inceneritore e contro la discarica è anche la lotta contro tutte le devastazioni ambientali, e il Notav è sicuramente quella più importante in questo paese in questo momento. Ascolti, mi senti? Mi senti? Sì, sento bene. Ecco, allora, volevo dirti, se già non l'avete letto, che questa mattina i giornali danno notizia che Marino ha firmato una proroga di 3 mesi all'AMA per utilizzare gli impianti di Cerroni. Allora, se ho capito bene, ha firmato una proroga di 3 mesi. Sì, un'ordinanza. Vabbè, è caduta la comunicazione. Magari lo richiamiamo. Comunque la notizia è questa, insomma, non l'anticipiamo rispetto alla cronaca di Roma, ma insomma nel contesto della corrispondenza ci sembrava giusto segnalarlo. Insomma, è stata emessa un'ordinanza del sindaco Marino per prolungare di 3 mesi l'uso degli impianti, compresi quelli di incenerimento, trattamento e le discariche di tutto il comparto che fa capo a Cerroni. Impianti DMB della provincia sono in fase di restauro, sono, e le loro discariche di servizio sono ferme, è per questo che Civitavecchia sta pensando di conferire i propri rifiuti temporaneamente qua ad Albano, ed è impensabile che insomma gli unici impianti funzionanti, che sono a quanto ne sappiamo Viterbo, Albano e Latina, possano sopperire il carico della città di Roma e dei vari comprensori provinciali. Quindi mi sa che è proprio un gioco obbligato a prorogare, a mandare avanti, insomma, a permettere all'AMA questa operazione, perché non c'hanno sbocchi se non quello, adesso come adesso. Sì, ma c'era stato precedentemente lo stop del prefetto, no? E quindi questo è in difformità, insomma. Quindi guarda, è un bel casino. Le operazioni che il prefetto sta mettendo in campo ci sarebbe molto da discutere, perché Pecoraro insomma si è distinto negli ultimi mesi veramente per incompetenza e insomma un'attività, dire squallida e dire poco. Sappiamo che insomma ha sempre avuto, insieme, quando soprattutto quando c'era Polverini al governo regionale, ha sempre cercato di privilegiare cordate vicino al centrodestra. E probabilmente il tentativo di bloccare i DMB di Cerroni rientra in questa strategia, cercando di favorire magari altri gruppi industriali che nel frattempo stanno ristrutturando i propri DMB, perché insomma stiamo parlando di DMB che sono fermi, tipo quello di Colleferro, tipo quello di Civitavecchia. E quindi poi, senza rendersi conto che bloccare quei DMB in questo momento vuol dire veramente mandare in emergenza la città di Roma e probabilmente anche ritrovarsi un po' dei rifiuti per strada, magari più del solito. E quindi insomma la sparata veramente grossa, si cerca di mettere in difficoltà il sindaco di Roma, certo, per lotte intestine, però senza minimamente una prospettiva di pianificazione di questo sistema di smaltimento, ma solo nell'ottica di avvantaggiare amici e consorterie varie. Va bene. E poi penso, insomma, con l'assenza del commissario straordinario, il prefetto, diciamo tra virgolette, ne fa le veci, visto i poteri di cui gode. Senti, come sta andando il presidio? No, il presidio sta andando bene, ha detto, siamo per ora un po' più di 100 persone, ma insomma si sta allargando e niente, si stanno mettendo sul piatto tutte anche le prospettive di mobilitazioni future per le prossime iniziative, che sono inevitabili se si vuole insomma assicurare il ripristino e la, insomma, alcune garanzie minime della salute qui delle popolazioni. Va bene, allora si sta rilanciando per le prossime settimane. Perfetto, ci sentiamo ovviamente se ci sono novità. Ok, grazie. Ciao, ciao a tutti. Ciao.